Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Salve a tutti e tutti da Frey e Priscilla. Benvenuti e benvenuti a quest'ultima puntata dell'anno di Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio a cura del Caso S. Si respira nell'aria un evidente spirito di festeggiamenti, di regali e di raffreddori anche, naturalmente. Come la qui presente Priscilla. Non possiamo quindi che accodarci anche noi, come testimone e raffreddore di Priscilla, a questa atmosfera più natalizia con una puntata più leggera in cui vi proponiamo una serie di letture interessanti da mettere sotto l'albero magari, trasformando i regali in un'occasione per parlare, leggere e discutere di storia, come è da sempre il nostro augurio. Il 2017, annata che abbiamo ampiamente ricordato essere stata dedicata all'anniversario della Rivoluzione Russa, è stato anche un anno particolarmente ricco per le uscite editoriali, che sono state tutte piuttosto interessanti. Ve ne abbiamo dato conto nell'arco di tutte le puntate di quest'anno. Ora vi segnaliamo alcuni testi che non abbiamo avuto modo di presentare nelle nostre puntate, ma che ci garantiscono un viaggio nella storia viaggiando fra generi diversi. Accompagniamo la puntata con un ascolto che potrebbe essere quasi considerato, diciamo, una raccolta di fonti. Il disco che ascolteremo in questa puntata è stato pubblicato nel 2017, quest'anno, da Warner Music Italia, ed è La mia generazione di Mauro Ermanno Giovanardi. Allora, Giovanardi, voce della Cruz, in La mia generazione reinterpreta una serie di pezzi degli anni 90 per rendere l'idea di cosa siano stati gli anni 90 della musica, una stagione che forse meriterebbe di essere approfondita un po' di più. Leggiamo un pezzo dell'intervista di Andrea Silenzi a Giovanardi, uscito sul venerdì di Repubblica il 22 settembre del 2017. Sì, dice Giovanardi, ho voluto fare un omaggio a quegli anni irripetibili, pazzeschi, che hanno segnato tutti quelli che li hanno vissuti. Quella musica è frutto di una congiunzione astrale imprevedibile. Tutta quella scena proveniva da un percorso legato al punk e alla new wave, quindi da un'idea di rottura profonda con il passato. Poi ci siamo resi conto che era diventato necessario cantare in italiano per farci capire. Uno spunto importante ce l'hanno dato le Posse, che in quel periodo stavano conquistando ampi consensi. Era diventato fondamentale che la gente capisse quello che raccontavamo. Nello stesso tempo, le major si sono rese del conto del fenomeno crescente e nel giro di pochi mesi tutte le etichette avevano messo sotto contratto almeno una o due nuove band. Cause you're my colpisci il cuore, donna di plastica, hai gli occhi un po' sbarrati, ma sei fantastica, tu mi rapisci il cuore, donna di plastica, hai gli occhi un po' sbarrati, ma sei fantastica. Dopo aver ascoltato questo primo pezzo andiamo con il primo suggerimento di lettura. Uscito in giugno, andiamo a prendere un volume molto particolare, insolito anche per Vallun, Miser, romanzo in versi di Fabiano Alborghetti, edito da Marcos y Marcos, una casa editrice dalle pubblicazioni sempre piuttosto azzeccate e raffinate. Abbiamo inserito quest'opera nella nostra lista di libri di storia perché Alborghetti ha raccontato in versi la storia secolare di una famiglia di Miser, di mangiatori di mais, come venivano chiamati in svizzero tedesco in tono spregiativo gli italiani che svolgevano i lavori stagionali. Usando un linguaggio molto realistico, che trova parole per descrivere anche aspetti scabrosi del vivere, Miser racconta di un uomo, Bruno, emigrato in Svizzera nel secondo dopoguerra, come tanti con la prospettiva di tornare in Italia, che finisce per restare poi nel Canton Ticino. La sua storia finirà a essere un ulteriore contributo alla costruzione dell'identità svizzera, pur con tentativi di chiusura come le leggi contro l'inforestimento del 1974, che portò all'espulsione di migliaia di persone al volgere del decennio. Bene, vi ne leggiamo una parte di questo Miser dalla prima sezione, la sezione Scoglio dell'Aquilone 1948-1952. Ci perdoni Alborghetti se la nostra lettura dell'interpretazione della sua poesia non è al meglio. Era un uomo normale, come altri forse, e bello, Bruno. L'inizio è da questo momento in poi, la storia comune di un uomo normale, in un dopoguerra di anni affamati e di affanni. Una vasta famiglia, come altri in quei tempi, e Bruno fra otto è quello mediano, con Teresa, Fedele, Aurelio e Vittoria, cui seguirono Nerio, Nerina ed ultimo Urbano. Andiamo un po' avanti. Figure frugali, forgiate dal peso di vertebre e calli, a campar per campi, a mezzadria per il grano, le viti e le bestie, il cielo a pesare e la terra a impregnare, la pelle ispessita, le unghie, le dita, il sudore lavato nel bacile sbeccato, nella poca luce da dove traluce il mistero, del corpo e abiti rimessi, il giorno dopo e dopo ancora e poi per mesi. So che un po' di tempo è quello che ci vuole, mentre un guaglione sta scacciando il male, sta aspettando il suo. Oggi non c'è sole intorno a me, e salvami, risplendi e scaldaci, voglio un sole, cerco nuova luce nella confusione. Come ieri, ma forse un'impressione, frutto della mente di un guaglione. Sarà che non c'è il sole, sarà che tutto sembra resti uguale, sarà quel che sarà, sono preso male, ma nessuno chiama e non so chi chiamare. Cerco di schiodarmi, penso solo quello che ho da fare. Gesù, sono io la vittima dei demoni che tornano e che vengono a tirarmi. cattivi pensieri che mi aspettano. Raccano, parlano e parlano. Dove sono i raggi che scaldavano un guaglione? Dove sono gli altri della mia ballotta? Mo che sono nel ciclone. In dopa trovo la mia cura. In dopa mischio le radici, la cultura, l'energia pura. La musica mi detta le parole, caccio queste rime, so che prima o poi ritorna il sole. Oggi non c'è sole intorno a me, salvami, risplendi e scaldaci, voglio solo. So che già sai che Chico fa quel che sa da fare quando amore non c'è. Devo gustare perché in tasca manca mone. Sempre più difficile restare calmo in questa situazione. Sclero, non ne voglio più, parto da zero. So che in qualche modo devo andare su, ma non c'è più luce, solo buio che fa male. Non c'è più pace, solo rabbia che ogni giorno sale. So bene dove sono, adesso voglio stare qui, sentire il beat. Se sei l'ascolto vieni a prendermi, rapiscimi. Musica colpisce il cuore, buncia, buncia, però non c'è dolore. Distendi le tue mani guaritrici su un guaglione, mentre sto aspettando il sole. Oggi non c'è sole intorno a me, salvami, risplendi e scaldaci, voglio solo. Voglio il sole, cerco nuova luce nella confusione di un guaglione. Bene, siete sempre sintonizzati con Vallun, il programma di storia, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, che vi sta guidando in una serie di suggerimenti editoriali per questo Natale 2017, come siamo diventati pop. Allora, rimaniamo sempre delle uscite non di storiografia, ma che raccontano bei pezzi di storia anche utilizzando altri linguaggi. Abbiamo visto la poesia con Miser di Fabiano Alborghetti. Passiamo a presentare adesso un volume che si immerge nella storia del Novecento utilizzando invece il linguaggio del fumetto. Il libro che vi proponiamo è L'Arabo del Futuro, del fumettista franco-siriano Riyad Satouf, celebre matita di Charlie Hebdo. E questo è un secondo volume di un volume che è uscito, scusate la ripetizione, in Francia nel 2014 e in Italia nel primo volume, per l'appunto, nel 2015, L'Arabo del Futuro, una giovinezza in Medio Oriente, 1978-1984, e oggi esce con il suo secondo volume, che copre invece l'arco cronologico dal 1984 al 1985. Libro questo che è stato un grande successo oltre Alpe e che ha avuto anche una bella affermazione qua in Italia. Quali sono state le chiavi di questa fortuna? Il lavoro di Satouf si è rivolto ad un pubblico occidentale che ormai ha familiarizzato con queste storie a fumetti dal sapore autobiografico che raccontano dei passaggi storici. Passaggi storici poi anche legati al mondo del Medio Oriente. Naturalmente un lavoro a cui spesso il libro di Satouf viene collegato è Persepolis di Marianne Satrapi. Se Marianne Satrapi ha raccontato dell'Iran della rivoluzione islamica, L'Arabo del Futuro si muove attraverso quella stagione, oramai del tutto entrata in crisi, di cui non se ne parla quasi più, del socialismo arabo. Protagonista del fumetto è infatti lo stesso Riyad, un ragazzino dai boccolosi capelli biondi, eredità della madre francese, che al seguito del padre, ricercatore universitario siriano e convinto panarabista, si trasferisce con la famiglia in quei luoghi in cui il nazionalismo arabo sembrava essere messo in pratica, quindi dapprima la Libia di Gheddafi e poi la Repubblica Araba Siriana guidata da Hafez al-Assad. I vari spostamenti non sono solo l'occasione di raccontare le difficoltà materiali affrontate dalla famiglia, come tutte le persone che vivevano in quegli stati, quanto soprattutto la maniera per raccontare le difficoltà provate da questo ragazzino biondo, biondissimo, lo vedete poi nelle scene, questo ragazzino piccolo e biondissimo, nell'inserirsi in un mondo tanto diverso dalla Francia come poteva essere quello medio orientale. Il tutto condito dall'idea del padre di fare di Riyadh un arabo moderno e istruito, per l'appunto l'arabo del futuro di cui si parla nel titolo. Il secondo volume della serie L'Arabo del Futuro, uscito a luglio 2017, pur mantenendo la carica ironica del racconto che viene mantenuta dalla rappresentazione veramente caricaturale dei personaggi incontrati da Riyadh e da questo bianco e nero netto riempito però da colori fluorescenti che rendono l'atmosfera raccontato da un bambino, assume però una narrazione complessivamente più cupa per raccontare lo sfaldarsi delle delusioni del nazionalismo arabo. L'aria densa, il fumo si spezza, non posso più vivere sempre a metà. Corro le strade della tua mano, che rossa la terra, va verso il sole. Soltanto un ricordo di ieri, dai prendimi adesso e trascinami giù, allarga le labbra su questa pelle, poi sciogli la vita e rovescia le ali, balliamo, balliamo, nera signora, balliamo, balliamo, che venga sera. Balliamo, balliamo, la nera signora. Balliamo, balliamo, finché venga sera. Balliamo, la nera signora, balliamo, balliamo, che venga sera, balliamo, balliamo, la nera signora, balliamo, balliamo, venuta la sera. Balliamo. Balliamo. Balliamo. Balliamo. Passiamo invece ora a presentare due testi di storiografia vera e propria. Uno è Doi Kate, Noi stiamo qui ora, un saggio di Massimo Pieri per Mimesis, e poi La città dell'acciaio, due secoli di storia operaia di Alessandro Portelli ed edito da Donzelli. Partiamo da Doi Kate, Noi siamo qui ora. Il saggio di Massimo Pieri, che vi segnaliamo come l'uscita editoriale sulla Rivoluzione, a nostro giudizio più interessante fra quelle uscite quest'anno, non tanto perché offra una rilettura originale del lungo processo rivoluzionario russo, quanto perché si concentra su un attore, non di secondo piano ma spesso trascurato, come è stato il Bund, il partito operaio degli ebrei russi. Interessante esperienza politica che giocò un ruolo di primo piano nella rivoluzione del 1905, il Bund, acronimo di Unione Generale degli Operai Ebrei di Russia, fu uno dei centri del dibattito nel socialismo europeo tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Il Bund poi fu stritolato dalla contrapposizione fra menscevichi e bolscevichi, in cui non riuscì a prendere una posizione. La storia del Bund è anche la storia della questione ebraica in Russia e in Europa, in quanto si mosse fra un'ideologia per propria natura cosmopolita, come il marxismo per l'appunto, e un'appartenenza a quella ebraica che si proponeva di trattare come una questione nazionale, spingendosi anche verso delle originali soluzioni federaliste per la soluzione delle problematiche nazionali per l'epoca, per l'appunto, molto, molto, molto innovative. Il Bund venne poi quasi stritolato, ripetiamo, per l'appunto, dagli anni del terrore staliniano, per poi riemergere in maniera del tutto inaspettata durante la rivolta del ghetto di Varsavia del 1944, dimostrando la complessità e la resistenza anche della stessa questione ebraica che si voleva proporre di risolvere. Le sue posizioni però finiranno definitivamente per scomparire quando all'interno del movimento ebraico finirono per prevalere le posizioni più legate al sionismo, che invece il Bund aveva sempre strenuamente combattuto. Con piacere poi vi segnaliamo il saggio La città dell'acciaio, due secoli di storia operaia, edito da Donzelli, curato da Alessandro Portelli, che è il padre della storia orale in Italia. Con La città dell'acciaio, un corposo volume di 452 pagine e dal costo proibitivo di 32 euro, Portelli chiude un lavoro che aveva iniziato più di 20 anni fa con il volume edito allora da Einaudi, Biografia di una città, storia e racconto, Terni 1830-1985. Servendosi tanto di fonti d'archivio quanto soprattutto di fonti orali a lui care, Portelli traccia il ritratto di una delle città più importanti industriali in Italia e di una delle più solide comunità operaie italiane, attraverso grandi cambiamenti, non da ultimo quello proprio più ultimo della deindustrializzazione, che ha realmente modificato il genoma di questa città. E poi tratta il tragico incidente della ThyssenKrupp di Torino, che ebbe una profonda eco anche a Terni, altra sede del colosso dell'acciaio. Il volume è caldamente consigliato proprio per la sua capacità di riscrivere, riprendendo il titolo del libro uscito nel 1985, la biografia di una comunità e quindi di una città. Chiudiamo la puntata facendo un'ulteriore segnalazione. Vi segnaliamo una mostra di cui si è parlato parecchio in queste ultime settimane, ma che noi ancora non abbiamo visitate, quindi un consiglio a scatola chiusa. Ebrei, una storia italiana, i primi 1000 anni, mostra che è stata inaugurata al nuovo MEIS, Museo Nazionale dell'Ebreismo Italiano e della Shoah di Ferrara, e museo che è stato inaugurato assieme alla mostra la scorsa settimana, chiudendo un iter legislativo e di finanziamenti statali iniziato nel 2003, poi nel 2011, e che si chiude per l'appunto in questo 2017 con la nascita di questo nuovo museo. Vi suggeriamo la mostra come invito anche a visitare questo museo, perché si presenta come una realtà molto interessante in cui si vuole costruire un racconto pubblico del contributo delle minoranze alla storia italiana, mettendole però al centro della narrazione. Già la struttura del museo di Ferrara è piuttosto interessante, perché c'è questo progetto molto forte firmato dallo studio Scape o Scape, questo non lo sappiamo, ci rimettiamo al comunicato del museo. Viene costruita una struttura sulla base dei volumi della Torah. La mostra ospitata è un primo capitolo della storia degli ebrei in Italia e vale sicuramente la visita, quindi visita la mostra, visita anche al museo. Non appena anche noi l'avremo visitata magari ne parleremo, perché è sicuramente interessante anche discutere in radio di come si faccia la storia pubblica, poi in particolare come si faccia la storia pubblica delle cosiddette minoranze, quindi vale la pena vederla e vale la pena magari anche riparlarne. Intanto noi vogliamo visitare anche la mostra che c'è al Mambo, che non ha bisogno della nostra promozione, ma comunque è interessantissima. È stata inaugurata il 12 dicembre ed è dedicata appunto all'arte della rivoluzione, oppure più che della rivoluzione, il paese rivoluzionario per eccellenza, quello del socialismo reale, che è la Russia, e si intitola Revoluzia, da Chagall a Malevich, da Repin a Kandinsky, inaugurata appunto, come dicevo, il 12 dicembre, e sarà lì per molto tempo, fino a maggio, se non sbaglio. Noi magari ci andremo e ne parleremo insieme. Bene, questi sono i nostri auguri, le nostre promesse per l'anno nuovo. Per oggi è tutto, appuntamento a gennaio. Direi il 14 di gennaio il 12 gennaio torneremo in onda. Per oggi è tutto, buone feste da Frey e Priscilla, buone feste e buon pomeriggio come sempre. Ciao. Ciao.